Ecco, noi Giovanni Germano, coordinatore generale di Cammina Molise, in varie tappe, in varie località del Molise, dal 4 al 7 agosto. Giovanni, ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao. Una manifestazione che ha lunghe radici, ce ne parli un po'? Certo, a lunghe radici anche perché sono passati già 24 anni. Di 4 anni di cammini, siamo in pratica io ho avuto la fortuna di girare tutti i paesi molisani a piedi, quindi li ho conosciuti camminando questi paesi. Sono 136 piccoli comuni della provincia di Campobasso, di Isernia, in Molise. E insieme a me sono venuti migliaia di persone in questi 24 anni, da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, appunto, per far conoscere questi bellissimi borghi, questo bellissimo territorio, cultura, arte, archeologia e tanta ospitalità in questi piccoli paesi che ancora sono rimasti intatti. È un modo questo per incidere nelle piccole realtà locali. Adesso, come sapete, purtroppo estremamente abbandonate come tutte le aree interne dell'Appennino. Sì. Noi siamo convinti che col semplice gesto del cammino si possa fare qualche cosa. Giovanni, com'era partito tutto? È partito per un caso. Noi, è ovvio, 24 anni fa, adesso anche io, come la mia associazione, che si chiama Associazione Culturale della Terra, avevamo all'epoca un giornale, un mensile molisano, che era stato fondato nel 94 per festeggiare il primo anno di questo mensile. La redazione stava a Roma. Come sai, qui a Roma è pieno di molisani, quindi anche io abito a Roma, però faccio il pendolario, faccio l'architetto condotto anche in Molise, quindi Sì. faccio avanti e indietro. E niente, per festeggiare questo primo anno, si è riunita la redazione, che facciamo? Che non facciamo? Perché non andiamo da Roma a Durogne, Durogne che è il mio paese, con le biciclette? Ma che biciclette, non tutti hanno la bicicletta, andiamoci a piedi. Ah, a piedi, vabbè, proviamo questa avventura, e così è nata. Siamo partiti in 30 matti da Piazza del Campidoglio, e in 4 giorni, percorrendo 50 km ogni giorno, siamo arrivati a piedi dopo 4 giorni al paese, in 4 tappe. Ed è stata una festa enorme quando siamo arrivati con la banda, le cose. Il successo poi di questo evento ci ha fatto ripetere anche il secondo anno, e poi il terzo, il quarto e così via. E poi è diventato, cioè il giornale che avevamo, anche il giornale si occupava delle piccole realtà locali, no? Infatti il giornale era pieno di rilevazioni di vari paesi, no? Che avevano questo problema dell'abbandono, quindi era un modo per far incontrare le energie che erano rimaste nei piccoli borghi, per capire cosa si potesse fare. Insomma, Sì. adesso, poi il giornale è durato per altri 9 anni, 10 anni, e purtroppo però ovviamente le energie che devono sostenere il giornale sono venute a mancare, però il Cammina Molise è continuato. Sì, piano piano coinvolgendo sempre di più i paesi e le amministrazioni. Eh sì, alla base, è un lavoro che si fa alla base, con i sindaci che stanno nelle trincee dei piccoli paesi, con le proloco, con le associazioni di base, con tanti altri volontari del posto, quei pochi che sono rimasti, che ci danno una grossa mano, anche perché questa è la cosa che funziona, perché lì sentono tutti che se non si fa qualcosa adesso, purtroppo il rischio è la morte di questi paesi. Ma non è un solo problema del Molise, è un problema Sì. dell'arco appenninico in generale, quindi tutti quanti si adoperano volentieri. E quando arrivano i marciatori, penso siamo arrivati a 300 già iscrizioni quest'anno, quindi per portare 300 camminatori per 4 giorni non è un'impresa facile. E Sì. quindi spesso accade che i marciatori sono di più degli abitanti quando arriviamo Giovanni, questa 4 giorni, ogni giorno ci sono due tappe. con una intermedia, diciamo, per una ventina di chilometri quotidiani. Sì, un po' di meno, Sì. diciamo una media di 15 km. Le prime due tappe sono tre paesi, le ultime due quest'anno sono solo due paesi. Quindi si va da un paese all'altro percorrendo i tratturi, i nostri sentieri dei contadini una volta, e quando si arriva in paese c'è la festa, insomma. Sia quando si arriva la mattina, quando si arriva a pranzo, che quando si arriva la sera. Bene. Senti, come funziona l'organizzazione? Come è strutturato? Allora, l'organizzazione funziona, adesso siamo in Italia, sono alcuni anni che superiamo le 200 e adesso anche le 300 persone, però insomma non credo che adesso metteremo, voglio dire, un tappo e più di queste persone non possiamo gestire, anche perché non c'è una struttura capace di ospitare tutte queste persone in Molise. Sì. Quindi 200 persone dormono in albergo, una cinquantina al campo tenda. Abbiamo allestito un campo tenda, ogni anno cambia, dove ce l'hanno i più giovani, quelli più energici, e un altro pullman, quindi sono sei pullman in tutto, direttamente da Campobasso, che raccoglie un po' i marciatori locali. Quindi tutti i pullman, quelli che partono dall'albergo, dal campo tenda e da Campobasso, ogni mattina prelevano i marciatori e li portano al paese da dove inizia la camminata. I pullman ci seguono i marciatori e poi la sera riaccompagnano i marciatori appunto dove pernottano. Bene. Allora, tutte le informazioni ho visto che sono sul sito internet laterra.org. Terra.org, sì. Sì, Poi che c'è. basta digitare Cammina Molise su Google che escono fuori, esce fuori tutta la nostra storia, insomma. Allora, ricordiamo l'appuntamento 2018 con Cammina Molise dal 4 al 7 agosto. Un saluto e un ringraziamento al coordinatore generale Giovanni Germano. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo e speriamo di vederci Grazie, speriamo di incontrare anche te lì. qualche Eh volta a sì. Cammina Molise e qualche ascoltatore di questa bellissima radio. A presto, ciao Giovanni.